Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Commenti, analisi e notizie sulla più grande avventura industriale degli ultimi 20-30 anni probabilmente. Vita dura per Sergio Marchionne, l'amministratore delegato di Fiat. Era appena arrivato negli Stati Uniti che Angela Merkel, cancelliere tedesco, lo ha convocato a Berlino. In aereo, sta arrivando a Berlino, se la vedrà lui con il dramma turbinoso dei fusi orari, ma questa faticata Marchionne ha il fisico per farla. Perché va a Berlino a parlare con la Merkel? Perché siamo al dunque. Domani, mercoledì, sarà una giornata straordinaria dal punto di vista di chi fa informazione e dal punto di vista in particolare di chi fa informazione economica. Sarà una giornata straordinaria per tutti noi che questa informazione, leggiamo, decrittiamo. Il governo tedesco, insieme con i capi dei Länder interessati, nei quali ci sono queste fabbriche, 25.000 lavoratori della Opel, la filiale europea, in particolare tedesca, della General Motors, che è alla vigilia del fallimento, il governo tedesco, i capi dei Länder e sullo sfondo le grandi lobby, le banche, i sindacati, l'insieme della società tedesca, in un momento di estrema tensione politica e istituzionale, con le elezioni europee locali alle porte, con le elezioni politiche generali previste per l'autunno, devono decidere a chi dare la Opel. Voi direte, ma la Opel non è della General Motors? Sì, la Opel è della General Motors, nessuno ancora gliel'ha portata via, lo è dal 1935, è una vecchia proprietà, diciamo, americana. Però ormai è così, decidono i governi che finanziano le case automobilistiche, che finanziano l'intera economia, che finanziano le banche, che hanno i fili del teatrino nelle loro mani. Decidono i governi e quindi grande tensione politica, non solo il governo tedesco, anche il governo federale americano. Obama ha espresso le sue preferenze chiare, ha fatto il mallevatore dell'accordo tra la Fiat e la Chrysler, giudica Marchionne, secondo quello che raccontano tutti gli osservatori della Casa Bianca, come il vero possibile leader di un nuovo grande gruppo competitivo nel mercato dell'auto mondiale, che può appunto salvare una parte della capacità produttiva, quella della Chrysler americana. Quindi è favorevole a che la Fiat completi il suo piano industriale con l'acquisizione di Opel per fare questo grande gruppo da 6 milioni di vetture prodotte l'anno. C'è però un problema che è segnalato oggi nell'articolo di apertura dello Herald Tribune, che è segnalato da un intelligente capo dei sindacati tedesco che si chiama, Klaus Franz. E lo segnala in modo molto semplice. La differenza tra il modo in cui gli americani affrontano la drammatica crisi di sovracapacità produttiva dell'automobile e di come l'affrontano gli europei è presto detta, dice il sindacalista tedesco. In America i fondi pubblici, i quattrini dei contribuenti vanno alle case automobilistiche perché le case automobilistiche si ristrutturino e diventino competitive, anche al costo dei licenziamenti che infatti procedono a decine di migliaia. Ti do i soldi, tu devi diventare competitivo e devi garantirmi la possibilità di produrre valore, ricchezza e profitto. Perché senza il profitto, senza la ricchezza e il valore generato da un'industria sana, non c'è niente da dividere per nessuno. Questo è il principio americano. Invece, dice il sindacalista Klaus Franz, in Europa è esattamente il contrario. Io ti do i soldi, ed è il caso tedesco, la Opel può avere la possibilità di continuare ad operare, perché le perdite Opel sono paurose, miliardi e miliardi di euro, con i soldi dei contribuenti tedeschi, ma solo se mantiene i livelli di occupazione. È una canzone che conosciamo da tempo, è la differenza tra un regime liberale liberista e un regime solidarista, un'economia di mercato socialmente orientata, come si dice, dovete mantenere i posti di lavoro. Commenti, analisi e notizie su questa faccenda dalla Germania e dall'Italia. Ospiti dell'Elefante stamattina, Walter Raue, corrispondente dalla Germania del Messaggero, Andrea Faticati, corrispondente della Germania del Foglio, Massimo Giannini, vice direttore della Repubblica e capo di Affari e Finanza, il supplemento economico del lunedì, Massimo Mucchetti del Corriere della Sera. La prima domanda è per Walter Raue e naturalmente riguarda la questione politica, cioè prima di tutto che previsione fa Raue? Secondo lei ha ragione il Wall Street Journal che oggi dice il favorito è Magna International, cioè il gruppo canadese che si è consorziato con una banca di Stato russa e con Gazprom, in sostanza con Putin, con la potenza di fuoco anche finanziaria della Russia, per avere la Opel e soffiarla, diciamo così, al piano industriale di Sergio Marchionne e della Fiat. Lei è d'accordo con questa previsione? Finirà così? Ma io non ci scommetterei, nel senso che comunque la è più complessa. La politica fino a pochi giorni fa, la politica tedesca, mi sto riferendo, sembrava in effetti incline al gruppo Magna, ma la reazione era un pochino affrettata, perché innanzitutto i piani andavano letti, mi sembra che già dopo. Dovrebbe cercare di sistemare il telefonino, Raue, ci sentiamo dopo. Andrea Faticati. Sì. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Si sente l'alito di Putin sulla trattativa a Berlino? No, l'alito di Putin, loro tengono molto, molto sullo sfondo Putin adesso e parlano prevalentemente dell'aspetto economico, tant'è che stamattina Handelsblatt, in un editoriale in cui tra l'altro, come lei accennava adesso, sulla Herald Trib, veniva fatto un discorso simile. Però il discorso è, in questo momento Putin viene tenuto sullo sfondo, sono convinti che il piano di Magna, diciamo, sia più innovativo e flessibile, perché si apre poi alla possibilità di produrre anche per altre case automobilistiche, cosa che Magna fa già. La propensione, mi pare, negli ultime 48 ore è una crescente fazione che sarebbe per l'insolvenza. L'insolvenza è un'ipotesi alla quale è molto contrario il cancelliere Merkel, però. L'insolvenza vuol dire che Opel sostanzialmente segue General Motors nella procedura del Chapter 11. General Motors è la vigilia del fallimento, secondo tutti gli osservatori. Però, naturalmente, questo renderebbe tutto molto precario e le promesse elettorali di conservare i livelli occupazionali andrebbero in fumo. Ho visto affaticati che Commerzbank si è schierata con Magna e finanzia i suoi piani con parecchi miliardi, è così? Certo, perché nello Stato, cioè in Magna è entrato lo Stato nel frattempo con il 25% più un'azione che gli dà il diritto, un diritto di veto e Commerzbank è la banca che dovrebbe principalmente finanziare e recuperare quel miliardo di prestito ponte che è previsto e che potrebbe far slittare comunque i tempi anche dopo le elezioni del 27 settembre. Dunque, un altro problema che volevo affrontare brevemente da Berlino, poi mi dite quando è ricostruito la connessione con Raue, grazie in regia. Un altro problema che volevo affrontare è questo, lo pone il professor professor Rusconi, che è un germanologo che ha vissuto molto a Berlino, credo che viva e lavori ancora in parte dell'anno a Berlino. E dice, le classi dirigenti tedesche sono molto spaventate dalla crisi, si difendono più che fare scelte razionali, questo è il titolo di una sua intervista al Messaggero, però nega che ci siano pregiudizi anti-italiani o non solo pregiudizi anti-italiani in questo inclinare più dalla parte di Magna che dalla parte di Fiat. Questa è l'analisi di Rusconi, il grande spavento tedesco, è vero affaticati? Allora, sulla stampa qualcosa di questa colorazione anti-italiana un po' traspare, però il discorso... Mi può dare qualche esempio? Quando la FAZ, un po' di te, la Frankfurter Allgemeine, un paio di settimane fa titolò addirittura l'effetto mondiali, dove c'era tutto un ragionamento su se due malati possono poi creare una persona sana, Però dicevano, alla fine chiudeva questo editoriale dicendo è un po' come ai mondiali, no? Che alla fine gli italiani ci soffiano il titolo. Ho capito, va bene. Walter Raue. Sì, ho capito, faticati. Walter Raue, adesso si sente, mi fa una piccola prova, eh? Sì, adesso io mi sento bene, spero che mi sentite bene anche voi. Bene. Dunque, come si fa a fare i conti, visto da Berlino, visto con la sovracapacità produttiva dell'industria dell'auto? Cioè, io voglio capire una cosa. C'è un giudice liberista a Berlino? Cioè, c'è qualcuno che dice al governo, ai capi dei Länder, ai sindacati, che tra l'altro hanno questo straordinario dirigente che ha segnalato questa diversità di modelli di business tra gli americani e gli europei. Insomma, questo fatto della salvaguardia dei posti di lavoro, messa in cima ai criteri attraverso i quali si valutano le offerte, Fiat ha dovuto ridurre i posti di lavoro che taglierebbe se diventasse proprietaria di Opel per cercare di vincere l'asta. Ecco, questa roba qui però si scontra con un fatto abbastanza ovvio. In Europa ci sono 2.400.000 addetti al settore dell'auto, in America sono scesi da 1,1 milione a 750.000. La globalizzazione esiste, non la si può cancellare, abrogare. C'è qualcuno che dice: ragazzi, bisogna ristrutturarla la Opel, non conservarla così com'è e darla a qualcuno che compia il miracolo di renderla competitiva. C'è qualcuno che dice questo o no? Ma l'unico che un pochino lo dice è il ministro dell'economia zu Guttenberg, che è di scuola neoliberista e di scuola imprenditoriale anche come esperienza di famiglia, dal momento che possiede lui stesso un'impresa di media grandezza in Baviera. Però è capitato male, perché è stato ha iniziato la sua carriera ministeriale 2 mesi fa, quindi nel pieno della crisi. E non bisogna dimenticare che in Germania ci sono le elezioni a settembre, elezioni politiche, quindi sempre per il neoliberismo credo sia un periodo pessimo, ecco, anche per imporre decisioni serie o oneste, se non altro, di questo tipo. Quindi credo che non ci sono giudici anche onesti, pragmatici e liberisti in questo periodo in Germania, né sul versante socialdemocratico, ma nemmeno su quello cristiano democratico o cristiano sociale bavarese. Gli unici sono quelli del Partito Liberale di Guido Westerwelle, con i quali la Angela Merkel punta a formare una nuova maggioranza di governo dopo le elezioni, se gli elettori lo permettono, però attualmente hanno poca voce in capitolo. Credo, ho l'impressione che prevale un po' il populismo, e c'è anche una nuova, in tutto questo dibattito intorno a Fiat Opel c'è un nuovo sapore nella politica tedesca, che mi sembra quello un po' caotico, quello cacofonico che conosciamo forse più da altri paesi, ma non immaginavamo che potesse esserci anche in Germania. Dire intorno, adesso fare un pronostico su quello che succederà è difficilissimo, perché abbiamo talmente voci così contraddittorie dai vari ministri dell'esecutivo Merkel e che cambiano anche di ore sì, in ora. L'impressione è che intorno a questo concorso internazionale per Opel si sia rotto un po' l'incantesimo che è il compromesso politico del governo di unità nazionale di questi anni, no? Si è rotto un po' l'incantesimo e via, ci si batte adesso e si fa anche un po' a pugni. Esatto. Grazie Raue, grazie. Sentiamo adesso 2 pezzi da 90 del giornalismo economico italiano, Giannini e Mucchetti. Giannini, oggi da un lato John Elkann, l'azionista di riferimento della Fiat, il rappresentante della famiglia Agnelli Elkann, va da zu Guttenberg, ma nel frattempo in cancelleria è Marchionne, ovviamente l'amministratore delegato, il capo azienda che conduce l'ultimo segmento, l'ultimo miglio di una trattativa vitale anche per la Fiat storica. Marchionne dice: se però non dovessi riuscire ad avere la Opel, che è un pezzo importante nella costruzione di questo colosso da 6 milioni di vetture prodotte l'anno, anche in quel caso io però non sarei preso da depressione. Insomma, pensa che eventualmente potrà cercare delle alternative. È un bluff o è la verità? Cioè, se la Fiat non riuscisse a prendere la Opel, che cosa succede dell'accordo Fiat-Chrysler e della prospettiva del piano industriale per il grande colosso secondo solo alla Toyota? Ma è chiaro che il mito dell'autosufficienza in questo momento è un elemento della trattativa che Marchionne giustamente intende far pesare, però c'è anche un elemento di bluff dietro questa posizione comprensibile del Lingotto, perché non ci dimentichiamo che qui siamo in una situazione di mercato che è disastrosa per tutti. Fiat non è un predatore in questo momento, così come per certi versi Chrysler e anche Opel non sono prede, sono tutte grandi aziende dell'auto ormai sull'orlo del precipizio, quindi la necessità di mettersi insieme deriva soprattutto dal fatto che altrimenti da solo nessuno va da nessuna parte, quindi in questo senso io credo che Marchionne, ripeto, faccia bene a far pesare questo elemento nella trattativa, però sapendo anche bene che è un'arma un po' spuntata. È chiaro che se fallisce l'accordo Opel, anche l'intesa appena raggiunta con Chrysler assume un aspetto molto diverso. Come sappiamo, l'accordo con Chrysler prefigura un gruppo che supera di poco i 4 milioni di vetture prodotte l'anno, e tutti sanno, gli esperti del settore lo hanno detto, noi lo abbiamo scritto da settimane, che la massa critica minima per poter reggere la competizione in un ruolo di grande player mondiale deve superare necessariamente. Bene, fatemi il piacere di mettere a posto i telefoni, perché è difficile fare la radio al telefono se non funzionano i telefoni. Mucchetti, spero che lei parli da un telefono fisso, se no mi suicido. Io sono se te lo sparo. Parlo dal telefono fisso. Bravo Mucchetti, grandissimo. Allora Mucchetti, volevo diciamo affrontare poi la vera grande questione. Dopo la pubblicità poi ne parleremo più ampiamente. Bisogna fare come fanno gli americani, cioè trasferire quattrini dei contribuenti alle industrie, ma solo a patto che queste industrie si ristrutturino, diventino competitive anche a prezzo di tagli all'occupazione nel mondo globalizzato, in cui sappiamo che cosa succede con i costi del lavoro e dove c'è una sovracapacità di produzione automobilistica, oppure bisogna fare come stiamo facendo concretamente in Europa, cioè una grande battaglia per mantenere, come dire, i livelli occupazionali. Secondo lei qual è la via migliore? Ma io credo che tutta questa grandissima differenza fra Stati Uniti ed Europa poi alla fine non ci sia, perché anche in Europa sono previsti tagli, ma in misura inferiore a quella americana. Probabilmente bisogna anche vedere in che condizioni concretamente stanno le imprese delle quali si parla. Chrysler era marcia, Opel non lo è. Opel fa parte di un gruppo, General Motors, che ha sbagliato tantissimo e che adesso si avvia al fallimento. Ma nell'ambito del gruppo General Motors, se è vero il teorema che sta sotto la proposta Fiat Chrysler, e cioè che nel futuro andranno molto le macchine piccole, ecologiche, insomma un po' le macchinette europee rispetto ai macchinoni americani, ebbene la General Motors aveva la sua Fiat nella Opel. E quindi la prima cosa che mi domando è perché la General Motors vende la Opel, e io non ho mai avuto una risposta a questo. Mi pare che ci sia uno scontro di potere a Detroit. Ma scusi Mucchetti, ma non è una spiegazione la quantità delle perdite bestiali che ha subito la Opel nel 2008? Non sono assolutamente superiori a quelle che subì la Fiat Auto. Quelle della Fiat Auto furono molto più grandi. La Fiat Auto negli ultimi 10 anni ha perso 10.5 miliardi di euro netti, al netto dei 2 anni di utile. Negli 8 anni in cui ha perso 12 miliardi di euro, e quando ha guadagnato ne ha guadagnati 600 più 600. Quindi io ci andrei un po' cauto con queste cose, come ci andrei cauto con il mito che bisogna fare per forza 6 milioni di auto per stare a galla. Io credo che non sia vero. La storia ci dice che la Fiat si è salvata riducendo la produzione e rendendo più efficienti gli stabilimenti. La Peugeot, che è un gruppo industriale che ha la stessa dignità della Fiat, voglio immaginare, pensa di salvarsi facendo esattamente quello che ha fatto Marchionne, cioè condividendo le piattaforme dei singoli modelli senza per questo fare fusioni o acquisizioni per le quali oggi non ci sono i mezzi, non ci sono prede né predatori, perché nessuno ha i quattrini. Cioè qui si fa di necessità virtù, e tante volte noi scambiamo questo fatto, che è realismo, con invece disegni imperiali, grandi ambizioni, cose bellissime, eccetera, eccetera. Qui stiamo cercando di condividere le miserie, non stiamo costruendo niente di stratosferico, è questo che io vorrei. Dovremmo guardare con un po' più di scetticismo a queste cose. Beh, vabbè, adesso poi ne parliamo dopo la pubblicità. Condividere le miserie, d'accordo, ma insomma poi la crisi finirà e bisognerà essere attrezzati alla ripresa per affrontare problemi di competitività. Il grande negoziato per la Opel, con Marchionne a Berlino che parla con Angela Merkel, John Elkann che parla con su Gutenberg, il ministro dell'economia, e tutti noi che assistiamo a questo scontro che dovrebbe concludersi mercoledì sera con una decisione. In ballo una cosa molto importante, il futuro dell'industria dell'auto mondiale, con un'industria italiana, la Fiat, che ha già acquisito Chrysler e che sta cercando di costruire un gruppo da 6 milioni di vetture. Di questo stiamo parlando e non è poco. Sentiamo Virgilio da Ravenna. Virgilio, buongiorno. Buongiorno Virgilio. Vabbè, buonasera, arrivederci. Allora, Danilo Taino sul Corriere della Sera, levate le telefonate perché se non siamo in grado di mandarle è inutile stare qui a penare. Allora, secondo l'analisi di Danilo Taino sul Corriere della Sera, la Fiat ce la può ancora fare ad affermare la sua idea che punta alla creazione del secondo gruppo dell'auto nel mondo dopo Toyota, ma non sarà facile. Continua Taino, secondo i più seri analisti economici e politici, la proposta della casa torinese è la migliore dal punto di vista industriale, quella che potrebbe dare a Opel un ruolo in un gruppo globale. La proposta, ecco qui è il punto sul quale vorrei che Massimo Giannini, vice direttore della Repubblica, che ha i nostri microfoni, riflettesse con me e con noi. La proposta di Magna e Gas, cioè dei canadesi alleati con i russi, che vede la partecipazione rilevante della banca vicina a Putin, Sberbank, è invece la più forte dal punto di vista della politica tedesca. Ricordo che la Opel è della GM, ma come ho detto all'inizio, a decidere fondamentalmente il governo tedesco, perché se il governo tedesco non caccia la lira, cioè l'euro, entro 7 giorni la Opel dovrebbe chiudere i battenti, nel senso che non avrebbe più la possibilità proprio liquida di continuare ad operare. Allora, dice Daniele Taino, dal punto di vista della politica tedesca è più forte la soluzione canadese, perché evita una rottura nella grosse coalizione di governo tra i cristiano-democratici di Frau Merkel e i social-democratici di Frank-Walter Steinmeier, decisamente schierati con il progetto Magna Gas. E anche dal punto di vista del venditore formale di Opel, la GM americana, questo è un altro punto sul quale non abbiamo ancora riflettuto, la soluzione russo-canadese di Magna è la migliore perché impedisce la creazione di un gruppo globale forte che sarebbe il concorrente diretto di General Motors. Cosa ne pensa Giannini di questi due punti, la politica e il fatto che GM tutto sommato preferisce che Marchionne fallisca nell'acquisto di Opel, perché poi questo grande gruppo secondo a Toyota sarebbe concorrenziale e fortemente competitivo con GM stesso? Ma io penso che siano i due aspetti decisivi di questa trattativa. Io non la vedo bene per la Fiat da questo punto di vista, spero di essere smentito al più presto, ma l'aspetto fondamentale riguarda la politica. A me sembra che in questa fase la questione Opel in Germania ricalchi la questione Alitalia ai tempi delle elezioni prima del 13 aprile, per capirci. È una questione che attiene allo spirito di bandiera dei tedeschi, che ancora cercano di salvare la nazionalità della Opel per certi versi. Quindi a questo aggiungiamo anche un minimo di pregiudizio anti-italiano che secondo me c'è, ma soprattutto c'è quello che lei diceva prima citando l'articolo di Taino, non la realpolitik, ma in questo caso l'ostpolitik. Quando c'è da fare un business, soprattutto in un settore importante e diciamo politicamente sensibile come l'auto, i tedeschi guardano gioco forza a est, e in questo senso tutto quello che sta facendo, la pressione che sta facendo Gerhard Schröder, che è consulente di Gazprom, per facilitare un accordo con Magna che aprirebbe degli scenari di collaborazione giganteschi con la Russia, secondo me è indicativo, e questo è un oggettivo elemento a favore di Magna, che da questo punto di vista gli italiani ben difficilmente possono opporre. Poi c'è l'altro aspetto, che è quello competitivo, concorrenziale, che riguarda invece il mercato globale e gli interessi di General Motors. Anche quello è un altro problema. Se va in porto l'affare Opel, indubbiamente questo conglomerato che nasce diventa un competitore serio per gli americani General Motors, posto che loro si salvino, perché anche quello è un altro aspetto. Passando magari per il fallimento e ristrutturandosi, poi dopo si troverebbero in un mercato dove i posti principali sono già occupati. Certo. Sulla parte politica, volevo sentire da Andrea Faticati e poi da Mucchetti. Dunque, vabbè, Drang nach Osten è un vecchio vizio, una vecchia virtù della Germania. In questo caso non si tratta di trovare spazio vitale oltre le frontiere, di invadere come accadde l'Unione Sovietica. In questo caso si tratta di una pacifica alleanza commerciale da stringere con Putin, con le sue banche di Stato e con così la sua potenza di fuoco energetico-finanziaria. Bene, il fattore di grande interesse a questo punto è, e la domanda la rivolgo in prima istanza a Mucchetti, la posizione del governo italiano. Vari articoli, uno che è uscito su Europa, ma anche su altri giornali, tendono a segnalare un certo distacco del presidente Berlusconi dalla trattativa in corso. Anche nella intervista alla CNN, rilasciata ieri, mi pare, Berlusconi ha detto, insomma, tra le altre cose, che naturalmente lui è con la soluzione Fiat, ma non vuole interferire. Insomma, è stato un po' schiscio, come si dice a Milano, come si dice in Lombardia. Si è tenuto un po' distaccato dalla cosa. Si dice che questo dipenda così da un intreccio diplomatico e di relazioni politiche internazionali in cui pesa il rapporto fra Berlusconi e Putin, oltre che il rapporto fra Berlusconi e Merkel. Lei cosa pensa, Mucchetti? Ma io non conosco le segrete cose fra Berlusconi e Putin, però farei osservare questo, che i governi hanno titolo per intervenire in questa partita, il governo americano su Chrysler e domani su GM e il governo tedesco, i Länder, su Opel, perché ci mettono tanti quattrini. Certo. Il governo italiano non sta mettendo nulla e meno male, voglio dire che non abbiamo queste urgenze. Probabilmente se dovesse metterci qualcosa farebbe fatica a trovarla, questo qualcosa, e quindi non avendo denari da mettere sul piatto è anche difficile esercitare grandi pressioni. Il governo tedesco ha titolo perché paga, e a suo modo anche la Russia qualche titolo se lo costruisce mettendo dei quattrini, compartecipando al capitale di rischio. Io penso che prima di tutto bisogna partire da qui. E se mi consente, volevo fare un'ulteriore precisazione a beneficio dei nostri lettori. Ci sono due modi di considerare la grandezza di un gruppo automobilistico: il numero delle automobili prodotte e certamente l'aggregazione fra Fiat Auto, Opel e Chrysler porterebbe al secondo o al terzo gruppo mondiale come numero di pezzi. Però non dovete dimenticare che una Mercedes non è una 500, ci possono fare 1,5 milioni di Mercedes ed essere uno dei più grandi gruppi mondiali, così come BMW, ed essere invece produrne molti di più come macchine, ma sono piccole, valgono poco e quindi essere piccoli in termini di fatturato. Quindi questo gruppo che andremmo a costruire sarebbe un gruppo molto grande come numero di pezzi, ma molto meno grande come valore, e di questo bisogna tenerne presente. E quindi io anche su questo è un tema su cui ragionerei, anche ai fini della conservazione della base industriale di questo quindi, gruppo. Quindi, per dirla chiara, il teorema quantitativo, almeno che diciamo è passato sulla stampa come teorema quantitativo di Marchionne, che dice 6 milioni uguale salvezza, lei dice va integrato con un teorema qualitativo. Bisogna vedere che tipo di produzione, che tipo di valore aggiunto. Quantità stiamo parlando, il numero dei pezzi è una cosa, il fatturato e i margini relativi è un'altra. Sentiamo, c'è ancora una variante interessante. Enrico da Udine sul rapporto con il mercato automobilistico cinese. Enrico. Sì, pronto, buongiorno Ferrara. Ecco, bravo che chiama da un fisso. Bravo, bravo, bravo, applausi. No, sono da un telefono mobile, ma sono in zona di copertura e mi sono fermato. un piccolo contributo alla vostra riflessione. Io volevo solamente dire questo. In questo contesto dove c'è una caccia all'azienda malata in cambio di ricevere grossi sussidi statali da parte prima del governo americano e poi di quello tedesco, non capisco perché in una situazione che comunque è sempre deficitaria, Fiat, che comunque si sta muovendo in maniera abbastanza spregiudicata, non vada a cercare una partnership interessante in Cina, dove c'è un mercato in forte esplosione, una produzione industriale altrettanto grande, con comunque dei prodotti che stanno diventando. Molto interessante. Giannini, c'è qualche segno di un interesse per il mercato automobilistico cinese da parte di Marchionne? C'è una piccola storia, diciamo anche laterale, da raccontare ai nostri ascoltatori o no in merito? Ma io ricordo che qualche tempo fa c'era stata qualche ipotesi, erano stati fatti dei sondaggi, ma allo stato attuale non mi sembra che ci siano prospettive concrete. Tanto è vero che l'ipotesi più plausibile è che se fallisca questo accordo con la Opel, Marchionne tenti di riaprire il capitolo della trattativa in Francia con il gruppo Citroën Peugeot, che sarebbe l'altro candidato naturale, per certi versi ancora migliore di quello che può essere Opel, per un accordo globale, anche se di nuovo lì si riproporrebbero, secondo me, anzi forse persino maggiori barriere protezionistiche, che in Francia sappiamo essere molto più alte di quanto non lo siano in Germania. Sergio da Milano, con una botta di scetticismo su buongiorno Sergio. Niente, volevo dire semplicemente che a mio avviso i tedeschi non si fidano di Opel, perché se guardiamo quello che è successo in passato negli anni 80 qui a Milano con l'Alfa Romeo, quando Prodi li consegnò su un piatto d'argento l'Alfa Romeo con promesse sempre della Fiat di mantenere la produzione, di studiare l'auto ecologica e tante belle cose, il risultato è che ad Arese non c'è più niente da 20 anni. E sono state fatte casse integrazione, licenziamenti, e le produzioni si sono spostate altrove e non qui dove storicamente era nata. Lei dice Sergio, un conto sono le promesse quando si cerca di aggiudicarsi una fetta di torta del mercato, come avvenne con Fiat e Alfa Romeo, un conto poi è mantenere le promesse. Ecco, non si fidano della Fiat perché poi la Fiat con Alfa Romeo. Mucchetti, secondo lei può essere vero questo, cioè una cattiva reputazione di ristrutturatore, inglobatore e divoratore? Ma la Fiat Auto, a parte il caso c'è stato un biennio molto buono, con l'ultimo e il penultimo, insomma l'ultimo anno con Marchionne e tanti anni fa con Ghidella, poi la Fiat Auto non ha avuto una storia brillante dal punto di vista industriale, ha avuto una storia tutta centrata sul taglio dei costi prevalentemente e non tanto sullo sviluppo del valore contenuto nelle vetture. Se posso portare un pensiero, i tedeschi hanno fatto una grande industria automobilista, qui noi non parliamo della BMW, della Mercedes, della Volkswagen, sono tutte grandissime case che vivono in Germania e a differenza delle grandi di Detroit sono tutt'altro che fallite, stanno bene. Dopo le strade in diretta, Mucchetti, vorrei fare una domanda che secondo me è chiave: come mai nessuno di loro partecipa alla corsa per Opel? Nessuno di questi colossi tedeschi che hanno quantità e qualità e creazione di valore dalla loro parte. Bene, Andrea Affaticati da Berlino, vorrei sapere perché secondo lei Volkswagen, BMW, Mercedes, che pure attraverso Daimler, Chrysler aveva dato un contributo, sia pure fallimentare nel passato, a questa logica di integrazione tra gruppi automobilistici per creare una grande economia di scala, non si fanno vivi in tutta questa vicenda? Dunque, parlando off the record ieri con un rappresentante dei liberali, una domanda fatta, una delle risposte, partiamo dal presupposto che i liberali tedeschi sono per esempio per portare all'insolvenza la Opel, è: una volta portato all'insolvenza, nominato il commissario, fatto, a quel punto i tedeschi potrebbero, un po' quello che è successo anche con la Lehman Brothers, cioè portarsi via le parti più succose, profittevoli. Di valore succose per loro, certo. Che certo, è, certo. Peraltro, torno sempre sull'editoriale. Le faccio i complimenti per aver tradito la promessa di raccogliere off the record queste dichiarazioni. No, io non ho detto chi è. No, è molto simpatico da parte sua dire: mi ha detto off the record un osservatore del Partito Liberale. No, quindi certo, loro sono interessati solo se c'è... Certo, certo. Solo se c'è l'insolvenza. Allora a quei patti loro sminuzzano la Opel, si prendono quello che gli aggrada. È così, no? Sì, questa è la cosa. Per quello anche prego, prego. Quello che riguarda invece quello che lei definiva l'Ostrank, cioè questa propensione verso l'est, io credo che bisognerebbe guardare un pochettino più, in una visione un po' più panoramica, i rapporti economici tra la Germania e la Russia. Non dimentichiamoci, è stato scritto poco, che però i tedeschi hanno appena sottoscritto contratti per miliardi per ammodernare, rendere più efficiente la rete di distribuzione energetica. Cioè, sono contratti da miliardi, beh, in qualche modo c'è sempre un... E poi non bisogna mai, grazie Andrea, e poi non bisogna mai dimenticare una cosa che spesso si dimentica. La Germania, sì, in un certo senso è culturalmente un paese dell'Europa occidentale, ma geograficamente, la geografia conta almeno quanto la storia, è un paese dell'Europa centrale. Cioè, insomma, il rapporto con la Russia è un vero grande rapporto, di cui ha fatto le spese molte volte nella storia la Polonia, diciamo, che pesa sempre, pesa culturalmente, politicamente, strategicamente, industrialmente, commercialmente. Come vi attrezzate, Giannini, a coprire quest'ultima fase, diciamo, della trattativa? Cioè, io penso che i giornali dovrebbero oggi, anche per essere competitivi con la televisione, con l'internet, eccetera, insomma, l'informazione multimediale, la parte poi che va su carta, e la cosa straordinaria di quello che sta succedendo è il romanzo, i trasferimenti, questi voli tra Washington e Berlino, questo fatto che si parla in tre lingue, che contemporaneamente, vabbè, tutti poi parlano inglese in realtà, ma insomma, e che questa trattativa è una trattativa in cui appunto entrano in campo per decidere del futuro del mercato automobilistico governi, banche possenti, interessi dello Stato, politiche estere, in una forma molto più evidente, molto più chiara, molto più, diciamo, sul proscenio di quanto non sia accaduto in passato. Anche in passato naturalmente i governi e le banche contavano in questi affari, ma adesso insomma, mi sembra proprio una grande avventura. Come pensate di coprirla? Ma a una crisi eccezionale si risponde con soluzioni eccezionali, questo lo è da tutti i punti di vista. Lei lo citava prima, è una svolta storica il fatto che per decidere i destini industriali di un gruppo come Opel ci sia una riunione che vede insieme governi, rappresentanti dei lender, sindacati, insomma è veramente un cambio di fase impensabile anche solo fino a un anno fa. Noi lo seguiremo come lo abbiamo sempre seguito, noi abbiamo sempre cercato di fare della sinergia tra il giornale di carta, il nostro sito internet e anche la nostra piccola televisione di Repubblica, uno degli assi portanti del nostro modo di fare informazione, che poi ci si riesca o meno, questo è un altro paio di maniche, però lo sforzo c'è, noi anche da questo punto di vista, tra oggi e domani soprattutto, perché mi pare di capire che domani sarà la giornata cruciale, cercheremo di raccontarla appunto proprio come un grande romanzo, perché effettivamente di questo si tratta. L'unica speranza, Mucchetti, appunto, è che sì. Che si chiuda presto il capitolo, sì, che ci sia un lieto fine per la Fiat, esatto, italiana. Va bene, dunque, Mucchetti, ieri avevate una vignetta veramente perfida, perché Sergio Marchionne ha questo tratto un po' sbarazzino di girare col pullover, col golf, e ieri il vostro vignettista Giannelli lo rappresentava con quell'aria così un po' dimessa, con un pullover con la cerniera addirittura, e si vedevano questi tedeschi molto in grisaglia, molto in giacca e cravatta, tutti lindi e perfetti, che dicevano: ma non possiamo fidarci di questo italiano, non ha neanche i soldi per comprarsi un abito nuovo. Era ovviamente molto divertente, e sottolineava l'elemento del fascino personale, che invece, a scorno del fatto che porta il pullover, evidentemente Marchionne ha, perché insomma sedurre la Casa Bianca e passare gran parte del proprio tempo in cancelleria a Berlino, così insomma, competendo con questi colossi che tentano di contendergli la presa dell'Opel, non è una cosa di tutti i giorni e per tutti i manager. Lei che dice, Mucchetti? Ma io penso che Marchionne abbia alle spalle un track record molto importante. Nessuno credeva che la Fiat, specialmente la Fiat Auto, avrebbe potuto risanarsi, e invece questo è accaduto. L'esplosione della crisi internazionale, la recessione, sembrano aver messo in forse questi risultati, ma la base industriale di Fiat oggi è snella e sana, e quindi questo accredita molto Marchionne, al di là dello stile personale. Va detto che negli Stati Uniti Marchionne ha avuto gioco relativamente facile, perché nessuno voleva Chrysler. Chrysler, non dimentichiamo, ha fatto perdere l'equivalente di 70-80 miliardi di dollari alla Daimler, cioè una cifra da capogiro, e quindi tutti la fuggivano. L'alternativa di Obama era fallire, chiudere e deludere la base elettorale sua, a Detroit ci sono molti neri fra l'altro, oppure affidarsi di questo italo-canadese un po' sorprendente, che aveva avuto questi grandi risultati, e provarci, e così ha fatto. In Germania invece ci sono tre concorrenti, questo vuol dire che Opel non è messa così male come era messa Chrysler, perché altrimenti non ci sarebbe stato nessuno, certo, che la voleva. Certo. Va bene, grazie Mucchetti, grazie a Walter Raue che ci ha lasciati alle 9:30, grazie ad Andrea Faticati e a Massimo Giannini, in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti e Peter Bescapè, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Grazie a tutti voi, a domani, baci.